Attenzione Sassari, Sassari, appa! Questo canale 10 è un mortorio, Un mortorio Alghero, ma qua Sassari, peggio ancora! Dove sono gli zombie? Dove sono gli zombie a Sassari? Dove sono gli zombie di Sassari? Dove sono? Sassari, Sassari, appa!